io non rimpiangerò, bene o male quel che fu, bene o male non mi illudono più. Sì, riparò, sì, forse ancora sbaglierò, e così voglio te, e con te nulla rimpiangerò. Hai ricordi di un dì, a un amor che finì, non ci voglio pensare. Sarà nuovo per me. No, dico no, no, io non rimpiangerò, bene o male quel che fu, bene o male non mi illudono più. Sì, riparò, sì, forse ancora sbaglierò.